festival nasce da un'idea molto, molto bella delle organizzatrici di questa, del comune di Castelmaggiore, di questa libreria Leggere Leggere, che coinvolge in primis due poeti, uno sono io e l'altro è Bernard Friot, questo poeta francese molto, molto conosciuto, ed è un'idea che si rivolge soprattutto al mondo della poesia, che anche se sembra un po' trascurato ormai nel panorama italiano, in realtà soprattutto per quella che riguarda bambini e ragazzi sta continuando ad avere un discreto successo. Quindi l'idea delle tre P, cioè della poesia per la pianura padana, è proprio quella di riempire in modo anche non, naturalmente non serioso, ma anche in maniera divertente, la pianura padana o quella parte di pianura padana di poesia. Il tutto si articola appunto su quattro giornate con un programma molto, molto intenso e con ospiti che hanno veramente fatto la storia della poesia per bambini e per ragazzi in Italia, e con giovani poeti che stanno cominciando a pubblicare libri molto interessanti, sia di filastrocche che di poesie vere e proprie. Allora, poi parleremo un po' di più anche proprio dei vari appuntamenti che ci saranno in questi quattro giorni, ma prima volevo farle una domanda anche sul crowdfunding che c'è stato legato, diciamo, a questo progetto. Sì, questa è stata un'idea molto bella, grazie appunto a Idea di Ginger.it, e l'idea è stata quella che, naturalmente, per quello che riguarda questi tempi, insomma, gli eventi culturali non sempre trovano l'interesse, ecco, di grossi sponsor o di amministrazioni comunali che hanno comunque spesso problemi di bilancio. In questo caso il comune di Castelmaggiore invece ci ha creduto moltissimo, però è stato anche bella l'idea appunto di proporre questo crowdfunding con un target che era quello dei 5.000 euro, ampiamente superati, siamo sui 5.600 euro, quindi un successo anche da questo punto di vista. È uno dei modi che io ritengo, visto che sono anche un dipendente pubblico, insomma, che ritengo molto belli proprio per avvicinare le persone, ogni tipo di pubblico, alle manifestazioni culturali, e quindi il fatto che ci sia stato comunque successo in questa operazione crowdfunding è stato molto, molto importante per noi. Ecco, abbiamo avuto un po' di momenti un po' in cui non sapevamo se si sarebbe raggiunto l'obiettivo, poi in realtà abbiamo visto che grazie a tantissime persone l'obiettivo è stato raggiunto, quindi in primis grazie naturalmente al comune di Castelmaggiore, ma anche a tutti quelli che hanno aiutato, che possono essere anche loro scrittori, poeti, lo sappiamo, ma anche classi di scuole. Ecco, e questa è una cosa molto, molto bella che noi, insomma, ci riempie di orgoglio, se posso dire così. Quindi, insomma, un crowdfunding che è stato un successo e che comunque avete deciso di mantenere aperto ancora per qualche giorno per raccogliere, diciamo, altri fondi che potrebbero essere destinati a rendere gratuiti tutti gli eventi. Esatto, questo è stato un po' lo scopo sia dell'idea iniziale del crowdfunding, ma anche e soprattutto per il fatto che oggi, che praticamente si riesce e si paga quasi tutto, in realtà noi poi, che fra l'altro insomma anche operatori di biblioteche, quindi c'è anche la biblioteca di Castelmaggiore che è sempre stata una realtà molto importante, abbiamo avuto questa idea di riuscire, insomma, nel tentativo di rendere gratuiti tutti gli appuntamenti, ecco, di questo festival, che è comunque un festival molto ricco, un festival molto importante, che naturalmente ha spese, perché qualunque festival naturalmente oggi costa qualcosa, e lo scopo è proprio quello di permettere a tutti i bambini di poter partecipare gratuitamente agli eventi. La poesia è di per sé gratuita, insomma, e quindi sarebbe bello riuscire a fare questa cosa. Questa è la ragione per cui è stato tenuto aperto il crowdfunding fino appunto al giorno in cui inizierà il festival, che è il 2 maggio, giovedì 2 maggio. Perfetto, l'ultima cosa che le chiederei è di segnalarci un po' alcuni degli appuntamenti, anche a gusto personale, diciamo, di quelli che ci saranno in questi quattro giorni, veramente densi effettivamente di appuntamenti. Allora, cosa importantissima sono gli appuntamenti per le scuole, che sono, non sono nel programma ufficiale, ma saranno quotidiani con tutti i poeti che parteciperanno al festival. Si passa dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore, quindi questo per me è già un indice di successo, la partecipazione delle scuole. Naturalmente le serate, che sono un po' per tutti, sono molto interessanti. La prima, ci saremo appunto io e Bernard Friot, che diamo un po' il via a questo festival, al teatro Biagi d'Antona in Castelmaggiore. La seconda ci sarà Silvia Vecchini, che insomma, quanto si parla di poesia italiana oggi per bambini e per ragazzi, è il nome che insomma va per la maggiore adesso in questo periodo e in questi anni, e quindi ci sarà assieme a Sualzo, che suonerà, farà un intervento musicale e non da illustratore o fumettista qual è, e poi ci sarà anche Chiacchio, che è l'illustratore del suo ultimo libro di poesie. Il sabato sera concluderemo con quello che viene ancora considerato il maestro non solo della poesia ma della scrittura italiana per bambini e per ragazzi, Roberto Piumini, assieme a Nadio Marenco, che è un musicista Ragusa, anche lui di Milano, e quindi sarà una serata molto importante. Questo per quello che riguarda, diciamo, il programma ufficiale delle sere. Io segnalo anche la mattina dopo, la mattina del 5, sull'argine del Reno a Trebbo, questa iniziativa in cui saremo vari poeti e anche i ragazzi volontari lettori della biblioteca di Castelmaggiore, per questa cosa di il ponte dov'è, saremo sull'argine del Reno, una passeggiata poetica, e proprio l'argine è stato inteso come la poesia, come un argine contro l'odio e contro l'intolleranza. Ci saranno anche due eventi alla COP, che è main sponsor del festival. Uno sarà proprio dentro al supermercato, si intitola Poesia a peso, quindi ci sarà come il bancone del pesce o delle carni, tra il bancone della poesia, a seconda della quantità, mezzetto, mezzo chilo, si riceverà una poesia. E l'altro invece sarà all'esterno, nel piazzale davanti alla COP, sarà Poetry Jukebox, in cui ci saranno molti lettori che leggeranno poesie in varie lingue. Funzionerà un po' come il jukebox, cioè ciascuno di quelli che del pubblico che partecipa può scegliere una poesia, andare dal lettore, che sarà riconoscibile naturalmente con un cartello con scritto appunto jukebox, e farsi leggere quella poesia. Ci sarà un incontro anche sul tema della traduzione, perché è molto importante che la poesia venga tradotta da un paese all'altro, anche se appunto sappiamo che tradurre è anche un po' tradire, quindi è difficile, però ci sarà questo incontro. Una merenda naturalmente poetica l'ultimo giorno, casa di Grazia Gotti nel suo giardino, e una cosa a cui insomma tengo particolarmente è il Ninna Nonno, che sarà una sorta di caccia alla poesia, che si svolgerà coinvolgendo filastrocche, indovinelli e anche alcune parole in dialetto. Ed ecco perché il Ninna Nonno, cioè non ci si addormenterà, perché si devono cercare persone anziane in grado di riconoscere parole dialettali, in collaborazione con i commercianti di Castelmaggiore, che offriranno una poesia a tutti i bambini della scuola primaria, dai 6 agli 11 anni, che andranno a cercare, a fare questa caccia alla poesia, e poi si dovrà concludere con la costruzione, la ricostruzione di una filastrocca scritta appositamente per Castelmaggiore. Poi ci sono anche gli appuntamenti pomeridiani, è un programma talmente ricco che è difficilissimo per me riassumerlo, insomma ci saranno occasioni proprio per tutti, per i bambini, per i ragazzi e soprattutto per gli adulti, anche per le famiglie. Ecco, quella dell'argine sul fiume Reno sarà anche in una frazione, fra l'altro, di Castelmaggiore a Trebbo, e quindi sarà un momento anche per passeggiare, vedere un luogo magico, perché un fiume e un argine sono sempre luoghi poetici già di per sé.